Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Sporco, lanciati a coprire distanze in pianure d'inverno, in precario equilibrio, su due righe metalliche scure, sono stanchi, sudati ed infermi, ma nascondono tra le meccaniche le nostre chimere, intanto ci riempiono di instabile fuga il bicchiere. È per questo che forse li canto, perché preso dal loro implacabile impulso di moto, non posso far altro di saltare e lasciarmi partire. È per questo che ancora li aspetto, solitario su questa banchina, fedele all'incontro, li guardo arrivare, prendo fiato e comincio a viaggiare. Non sono mai stato capace di allontanarmi dalla linea gialla, non riesco nemmeno a pensare di allontanarmi dalla linea gialla. Non sono mai stato capace di allontanarmi dalla linea gialla, non riesco nemmeno a pensare di allontanarmi dalla linea gialla. Cerco la mia libertà, la cerco spostando il mio centro in qualsiasi stazione. Perdo la stabilità dentro al tuo vagone che taglia quei campi a metà. Bisogno, necessità, pretendo più spazio dai giorni che mi hanno concesso. Perdo la capacità di scendere a patti coi limiti imposti dal tempo. Pezzi blu che si aggrappano al ferro, sbandierano esterni del torrido caldo d'agosto, vorrebbero scendere, ma tu li trascini con te. Pendolare abitanti distrutti, rimpiangono terra, immobili, stabili e spente, ti guardano male, te la ridi e continui ad andare. Ogni volta mi mostri l'accesso e mi fai conscio della congestione del mondo moderno che induce a produrre e paralizza la mia autonomia. Diluisce una storia già scritta, poi mi chiede di scegliere l'unica opzione permessa. Mi guarda dall'alto e come un padre mi fa una carezza. Non sono mai stato capace di allontanarmi dalla linea gialla, non riesco nemmeno a pensare di allontanarmi dalla linea gialla. Non sono mai stato capace di allontanarmi dalla linea gialla. Cerco il tempo che se ne va, cerco la libertà, la cerco spostando il mio centro in qualsiasi stazione. Perdo la stabilità dentro al tuo vagone che taglia quei campi a metà. Bisogno, necessità, pretendo più spazio dai giorni che mi hanno concesso. Perdo la capacità di scendere a patti coi limiti imposti dal tempo. Vorrei solo sapere come fai. Vorrei solo sapere come fai a muoverti costante, senza dar conto a nessun altro, non ti fermi mai. Voglio sapere come fai a trasformare il ticchettio del tempo in un chilometro lanciato. Voglio solo sapere come fai a correre distante, distruggi ciò che è immobile, so che continuerai. Voglio sapere come fai, dimostrami che attendere in silenzio è impraticabile, è sbagliato. Non sono mai stato capace di allontanarmi dalla linea gialla, non riesco nemmeno a pensare di allontanarmi dalla linea gialla. Non sono mai stato capace di allontanarmi dalla linea gialla, non riesco nemmeno a pensare di allontanarmi dalla linea gialla.